Ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Undicesima puntata. Al loro meglio entrambi. L'istituto della signorina Twinkleton stava per immergersi in un sereno silenzio. La sospensione natalizia era prossima. Quello che un tempo, in un periodo non troppo lontano, era stato denominato il mezzo dall'erudita signorina in persona, ma che ora, in quanto più fine e sobriamente collegiale, era chiamato il trimestre, sarebbe terminato l'indomani. Da qualche giorno un palese rilassamento della disciplina si era diffuso nella casa delle monache. Nelle camere da letto si erano tenute cene sociali e una lingua salmistrata era stata affettata con le forbici e servita con la riccia capelli. Le domestiche erano state corrotte con varie striscioline di nastro e svariate paia di scarpe più o meno scalcagnate perché non menzionassero le briciole nei letti. E la temeraria Ferdinand aveva perfino sorpreso la compagnia con un assolo di pettine e carta da ricci, fino a venir soffocata col suo stesso cuscino da due giustiziere dai capelli fluenti. Elargizioni sotto forma di avanzi di creme e pomate e anche di forcine furono prodigalmente distribuite tra gli inservienti. Previe solenni promesse di segretezza furono scambiate confidenze sulla durata gioventù di Inghilterra, di cui si attendeva la visita a casa alla prima occasione. A dire il vero, Jiggles, sentimentalmente carente, dichiarò che lei, da parte sua, avrebbe accolto a smorfie l'omaggio della durata gioventù, ma la stragrande maggioranza prese le distanze dalla giovane signora. La cerimonia finale si tenne il giorno della partenza, a mezzogiorno, quando la signorina Twinkleton, assistita dalla signora Tisher, offrì un rinfresco nel suo salotto privato, dove bicchieri di vino e vassoi di fette di torta erano disposti in bell'ordine sul tavolo. Disse allora che un altro anno, signorine, ha compiuto la sua rotazione e ci ha riportati al periodo festivo che fa palpitare i più teneri sentimenti dei nostri. Ogni anno la signorina stava per aggiungere petti, ma ogni anno si fermava sull'orlo dell'espressione e la sostituiva con cuori. Cuori, i nostri cuori. Ancora una volta, un anno ha compiuto la sua rotazione, signorine, e ci ha riportate a una pausa nei nostri studi. Studi molto progrediti, speriamo. E ora, signorine, con reciproco affetto ci daremo un saluto e un augurio di felicità fino al nostro prossimo incontro. E quando verrà il tempo di riprendere quell'impegno che, qui si diffuse un senso di depressione generale, l'impegno che dovremo allora sempre tenere a mente ciò che disse il generale spartano, in parole troppo note per doverle ripetere, nella battaglia troppo famosa per doverla specificare. Arrivò in breve il momento del congedo e la signorina, nel posare un bacio sulla guancia di ognuna, le affidò una bella lettera ordinata, diretta al suo parente più prossimo, con i migliori ossequi della signorina Twinkleton scritto in un angolo. Con grande decoro porse la missiva come se non avesse la minima connessione con la retta, ma contenesse una raffinata e gioiosa sorpresa. Rosa aveva visto queste separazioni talmente spesso e talmente sconosciuta le era una casa diversa da quella, che era contenta di restarci, tanto più poiché per la prima volta aveva con sé una nuova amica. E tuttavia in quella nuova amicizia vi era uno spazio vuoto che non poteva ignorare. Helena Landless, avendo condiviso con Chris Sparkle la rivelazione del fratello su Rosa ed essendosi impegnata con lui a mantenerla segreta, si ritraeva da qualsiasi allusione al nome di Edwin Drood. Perché lo evitasse era un mistero per Rosa, ma che lo facesse, questo lo percepiva chiaramente. Se così non fosse stato, avrebbe potuto alleviare il suo piccolo cuore perplesso di esitazioni e dubbi, confidandosi con Elena. Ma per come stavano le cose, non disponeva di quello sfogo. Non poteva far altro che riflettere sulle sue difficoltà e chiedersi con stupore crescente il motivo per cui quel silenzio si protraesse. Ora che sapeva, perché questo Elena gliel'aveva detto, che i due giovani si sarebbero riconciliati definitivamente al ritorno di Edwin. Grazioso sarebbe stato ritrarre le graziose ragazze che baciavano Rosa sotto il freddo portico e la creaturina solare che da lì si affacciava, salutando con la mano le carrozze in partenza, come a rappresentare lo spirito della rosea giovinezza che dimorava in quel luogo per mantenerlo luminoso e caldo nell'abbandono. La voce roca del corso divenne musicale al grido di tante voci argentine. Poi la placida strada, insolitamente inondata per alcuni attimi dalla luminosa fresca giovinezza, si inaridì e Cloisterham fu di nuovo se stessa. Se ora Boccio di Rosa, nella sua stanza, attendeva l'arrivo di Edwin Drood col cuore inquieto, da parte sua anche Edwin era inquieto. Molto meno determinato dell'infantile bellezza incoronata per acclamazione regina delle fate, aveva tuttavia una coscienza e Grugius l'aveva pungolata. Le ferme convinzioni di quel giovanotto su ciò che era giusto e su ciò che era sbagliato in un caso come il suo non si potevano spazzar via con risate o risentimenti. Restavano inamovibili. Non fosse stato per la cena a Staple Inn e per l'anello nella tasca interna della sua giacca, si sarebbe lasciato portare dalla corrente fino al matrimonio, fiaccamente fiducioso che le cose sarebbero filate lisce se lasciate andare per il loro verso. Ma la serietà di quel richiamo alla verità, dovuta ai morti e ai vivi, l'aveva bloccato. Doveva dare l'anello a Rosa oppure riportarlo indietro. Una volta immesso in questa angusta libertà di scelta, stranamente iniziò a considerare i diritti di Rosa su di lui più di quanto li avesse mai considerati e a sentirsi meno sicuro di sé di quanto mai si fosse sentito in tutti gli indolenti giorni della sua vita. «Mi lascerò guidare da quello che dirà lei e da come andranno le cose tra noi», decise, camminando dalla casa di pietra alla casa delle monache. «Qualunque cosa accada, terrò a mente le parole di Grugius e cercherò di essere sincero con i vivi e i morti». Rosa era vestita per uscire. Era una giornata luminosa e fredda e la signorina Twinkleton aveva già graziosamente autorizzato la passeggiata all'aria aperta. Così uscirono insieme. «Mio caro Eddie», disse Rosa una volta lasciato il corso, quando furono tra i quieti sentieri in prossimità della cattedrale del fiume, «ti voglio dire una cosa molto seria. Ci ho pensato per tanto di quel tempo. Anch'io voglio parlarti seriamente, Rosa cara. Voglio essere serio e onesto». «Grazie, Eddie. E non penserai che sono scortese se comincio io, vero? Non crederai che penso solo a me stessa se parlo per prima? Non sarebbe generoso, no? E io lo so che tu sei generoso. Spero di non essere ingeneroso con te, Rosa». Non la chiamava più Pussy. Mai più. «E non litigheremo, vero? Perché Eddie», stringendogli il braccio, «ci sono così tante ragioni per essere tolleranti l'uno con l'altro». «E lo saremo, Rosa». «Bravo ragazzo. Eddie, dobbiamo essere coraggiosi. Da oggi in poi diventeremo fratello e sorella. Mai marito e moglie. Mai». «Fratello mio!» Gli baciò la mano in un piccolo impeto estatico. «Le care ragazze saranno così deluse», aggiunse ridendo, con gocce di rugiada luccicanti negli occhi luminosi. «L'aspettavano con tanta ansia, povere piccole». «Temo che sarà una delusione anche più grande per Jack», disse Edwin Drood trasalendo. «Non ci avevo ancora pensato. Come glielo dico?» disse Edwin rimuginando. Fosse stato meno assorto in quel pensiero, avrebbe dovuto vedere la singolare emozione di lei. «A Jack non ci avevo proprio pensato. Bisogna dirglielo prima che si sappia in giro. Domani sono a pranzo da lui e anche dopodomani, la vigilia e il giorno di Natale, ma non posso mica rovinargli le feste. È sempre lì a preoccuparsi per me, a smaniare per ogni piccolezza. La notizia lo sconvolge di sicuro. In nome di Dio, come si fa a dirglielo?» «Bisogna farlo?» chiese Rosa. «Mia cara Rosa, a chi dovremmo confidarlo se non a lui?» «Il mio tutore ha promesso di venire se gli scrivo glielo chiedo. Lo farò. Vuoi che se ne occupi lui?» «L'altro fiduciario, niente di più naturale!» esclamò Edwin. «Arriva, va da Jack, riferisce l'accordo che abbiamo preso e spiega la nostra posizione meglio di quanto si possa fare noi. Con grande sensibilità ha già parlato con te e ha già parlato con me, e con grande sensibilità presenterà la cosa anche a lui.» «Perfetto!» «Non sono un codardo, Rosa, ma ti dico in segreto che Jack mi fa un po' paura.» Continuarono a camminare lungo il fiume. Si misero a parlare dei loro progetti separati. Lui avrebbe affrettato la sua partenza dall'Inghilterra e lei sarebbe rimasta dove si trovava, almeno finché ci rimaneva Elena. La delusione andava svelata alle povere care ragazze con cautela e come primo passo Rosa si sarebbe confidata con la signorina Twinkleton anche prima della ricomparsa di Grugius. Doveva essere ben chiaro a tutti che Edwin e lei erano ottimi amici. La comprensione tra loro non era mai stata così serena da quando si erano fidanzati e tuttavia da parte di entrambi c'era una riserva. Da parte di lei l'intenzione, attraverso il suo tutore, di ritirarsi immediatamente dalle lezioni di musica. Da parte di lui le fantasticherie errabonde che già coltivava su una possibile conoscenza più approfondita di Elena Landless. La giornata luminosa e fredda giunse al tramonto. Mentre camminavano e parlavano, nella lontananza alle loro spalle il sole si immerse nel fiume e la vecchia città si stese rossa dinanzi a loro mentre la passeggiata volgeva al termine. «Preparerò Jack alla mia partenza anticipata», disse Edwin a voce bassa. «Vedrò il tuo tutore quando arriva e poi me ne andrò prima che si siano parlati. Ci riusciranno meglio in mia assenza, non pare anche a te?» «Sì. Sappiamo di aver agito bene, vero Rosa?» «Sì, e col passare del tempo staremo sempre meglio.» Eppure indugiava loro in cuore una tenerezza per la condizione che stavano lasciando e rimandavano l'addio. Quando si trovarono vicino alla cattedrale, tra gli olmi, si fermarono, quasi di comune accordo. E Rosa alzò il viso verso di lui come non aveva mai fatto ai vecchi tempi, perché ormai erano vecchi. «Dio ti benedica, caro. Addio.» «Dio ti benedica, cara. Addio.» Si baciarono con fervore. «E adesso portami a casa, Eddie, ti prego, e lasciami sola.» «Non ti girare, Rosa», l'avvertì lui mentre la prendeva sotto braccio e la conduceva via. «Non hai visto Jack?» «No, dove?» «Sotto gli alberi. Ci ha visti mentre ci salutavamo. Poveretto, non se lo immagina che è stato un addio. Ho paura che sarà un brutto colpo per lui.» Lei affrettò il passo senza fermarsi e continuò ad affrettarsi finché non si trovarono in strada e una volta là chiese: ci ha seguiti. Puoi guardare senza fartene accorgere. È dietro. No, sì, c'è. È appena sbucato all'arco. Caro vecchio ragazzo, con tutto il suo attaccamento non vuole perderci di vista. Ho paura che sarà una delusione tremenda. Lei tirò in fretta la maniglia del vecchio roco campanello e presto il cancello si aprì. Prima di entrare diede un ultimo sguardo carico di stupore, come per chiedergli con enfasi implorante: «Ma non capisci?» E lui, allontanandosi da quello sguardo, scomparve dalla sua vista. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.